La stagione era abbastanza mite da favorire il progetto di allungare il viaggio di nozze fino a Roma, e a Mr. Casabo questo premeva, perché desiderava consultare dei manoscritti del Vaticano. Tuttavia mi spiace che vostra sorella non ci accompagni, disse una mattina, qualche tempo dopo che si era constatato che Celia non aveva intenzione di andare e che Dorotea non desiderava la sua compagnia. Dovrete passare molte ore da sola, Dorotea, perché sarò costretto a sfruttare tutto il mio tempo al massimo durante il nostro soggiorno a Roma e mi sentirei più libero se voi aveste una compagna. Le parole mi sentirei più libero diedero sui nervi a Dorotea. Per la prima volta parlando con Mr. Casabo, essa va un po' per l'irritazione. Dovete avermi di molto fraintesa, disse, se credete che io non possa capire quanto sia prezioso il vostro tempo, se pensi che non rinuncerei volentieri a qualsiasi cosa che interferisse col vostro uso di esso per gli scopi migliori. Questo è molto grazioso da parte vostra, mia cara Dorotea, disse Mr. Casabo, non accorgendosi minimamente che essa si sentiva ferita. Ma se aveste una signora come compagna, vi potrei affidare entrambe le cure di un cicerone e così potremo raggiungere due scopi nello stesso periodo di tempo. Vi prego di non ritornare sull'argomento, disse Dorotea con tono piuttosto altezzoso, ma subito ebbe timore di essere in torto e, voltatasi verso di lui, posò la propria mano sulla sua, aggiungendo con accento diverso. Vi prego, non preoccupatevi per me. Avrò tante cose a cui pensare quando sarò sola e Tantripp mi basterà per compagna, giusto per prendersi cura di me. Non potrei sopportare di avere Celia, si sentirebbe demoralizzata. Era l'ora di vestirsi. Quel giorno ci dovevano essere degli invitati a cena, l'ultimo ricevimento che si sarebbe tenuto alla Grange come preliminare e opportuno al matrimonio, e Dorotea fu lieta di avere un buon motivo per allontanarsi subito al suono del campanello, come se avesse bisogno di un tempo più lungo del consueto per prepararsi. Si vergognava di essersi irritata per un qualche motivo che non riusciva a chiarire neppure a se stessa, perché sebbene non avesse intenzione di non essere sincera, nella sua risposta non aveva accennato alla vera ferita che aveva dentro. Le parole di Mr. Casabo erano state del tutto ragionevoli, eppure le avevano trasmesso una vaga sensazione fuggevole di distacco da parte di lui. Di certo il mio stato mentale è debole e stranamente egoista, si disse. Come posso avere un marito così superiore a me senza sapere che lui ha bisogno di me meno di quanto io ne abbia di lui? Convinta anzi che Mr. Casabo aveva del tutto ragione, recuperò la propria calma e quando entrò nel salotto con l'abito grigio argento presentò un'immagine gradevole di serena dignità. Le linee semplici dei suoi capelli castano scuri divisi sulla fronte e disposti in una grossa crocchia sulla nuca, in armonia con l'assenza completa dai modi e dall'espressione di ogni ricerca di effetto superficiale. Talvolta, quando Dorotea era in compagnia, sembrava avere un'aria così totalmente tranquilla come se fosse stata un quadro di Santa Barbara che dalla sua torre figge lo sguardo nell'aria chiara. Ma questi intervalli di tranquillità mettevano ancora in maggior risalto l'energia delle parole e dei sentimenti nel momento in cui un qualche interesse esterno la toccava. Quella sera fu naturalmente oggetto di molte osservazioni, poiché il ricevimento era su vasta scala e più composito quanto alla rappresentazione maschile di qualsiasi altro che fosse stato tenuto alla Grange da quando Mr. Brooke vi risiedeva con le nipoti, cosicché la conversazione avveniva in duetti o terzetti più o meno discordi. C'era il neoeletto sindaco di Middlemarch, che si dava il caso fosse un industriale, il banchiere filantropo, suo cognato, che in città predominava a tal punto per alcuni, era un metodista. Per altri un ipocrita, secondo delle risorse del loro vocabolario, e c'erano vari professionisti. In effetti, Mrs. Cadwallader disse che Mr. Brooke stava cominciando a prendere in considerazione gli abitanti di Middlemarch e che lei preferiva gli agricoltori al pranzo delle decime, i quali bevevano alla sua salute senza tante pretese e non si vergognavano dei mobili dei loro nonni. Infatti, in quella parte del paese, prima che la riforma avesse contribuito notevolmente a sviluppare la coscienza politica, le distinzioni di casta erano più chiare e più nette di quelle di partito. Cosicché gli inviti eterogenei di Mr. Brooke sembravano nascere da quella generale negligenza che proveniva dal suo eccessivo viaggiare e dall'abitudine di essere troppo aperto in materia di idee. Appena Miss Brooke fu uscita dalla sala da pranzo, si trovò l'occasione per varie esclamazioni. Bella donna, Miss Brooke! Una donna di una bellezza non comune, per Dio, disse Mr. Standish. Il vecchio avvocato, che si occupava da tanto tempo della nobiltà terriera, da essere diventato un proprietario terriere a sua volta, e pronunciava quell'esclamazione con voce profonda, come una specie di blasone, che contrassegnava il modo di parlare di un uomo che ricopriva una buona posizione. Mr. Bulstrode, il banchiere, a quanto pare era l'interlocutore, ma quel signore non amava la volgarità e le imprecazioni e si limitò a fare un inchino. L'osservazione fu raccolta da Mr. Kikeli, uno scapolo di mezza età e celebre cacciatore, che nell'aspetto aveva qualcosa di simile a un uovo pasquale, un ciuffetto di capelli pettinati con cura e un portamento che tradiva la consapevolezza di un'apparenza distinta. Sì, ma non è il mio tipo. Mi piace una donna che si dia un po' più da fare per contentarci. Ci dovrebbe essere un po' di filigrana in una donna, qualcosa della civetta. A un uomo piace di essere sfidato un po'. Quando più vi si oppone, tanto meglio. C'è del vero in questo, disse Mr. Standish, disposto ad essere affabile. E per Dio, di solito si comportano così. Suppongo che questo risponda a qualche saggia finalità. La provvidenza le ha fatte così, eh? Bulstrode. Sarei felice a imputare la civetteria a un'altra origine, disse Mr. Balstro. Preferirei imputarla al demonio. Già, certo, ci dovrebbe essere un demonietto in una donna, disse Mr. Kikeli, i cui studi sul bel sesso sembravano aver nuociuto alla sua teologia. E mi piacciono bionde, con una certa andatura e un collo da cigno. Si è detto fra di noi, la figlia del sindaco la trovo di mio gusto più di Miss Brooke e anche di Miss Celia. Se fossi un uomo in cerca di moglie, preferirei Miss Vincy a tutte e due. Beh, fatele la corte, disse Mr. Standish, con aria giocosa. Vedete che gli uomini di mezza età sono padroni del campo. Mr. Kikeli scosse il capo molto eloquentemente. Lui non era sicuro di essere accettato dalla donna che avrebbe scelto. La Miss Vincy, che aveva l'onore di essere l'ideale di Mr. Kikeli, come è naturale, non era presente. Infatti, Mr. Brooke, sempre contrario a spingersi troppo in là, non sarebbe andato che le nipoti incontrassero la figlia di un industriale di Middlemarch, tranne che a una cerimonia pubblica. La sezione femminile della brigata non comprendeva nessuna su cui Lady Chatham o Mrs. Cadwaller potessero trovare da ridire. Infatti, Mrs. Renfrew, la vedova del colonnello, non solo era irreprensibile in quanto a educazione, ma anche interessante a cagione della sua malattia, che sconcertava i medici e sembrava chiaramente un caso in cui la professionalità più completa avesse bisogno dell'integrazione della ciarlataneria. Lady Chatham, che attribuiva la propria salute eccezionale ad amari fatti in casa, uniti a una costante assistenza medica, porse orecchio con un grande sforzo di immaginazione alla relazione fatta da Missy Renfrew dei sintomi e della sorprendente inutilità, nel suo caso, di corroboranti. Dove può andare tutta la forza di quelle medicine, mia cara? Disse la mite ma imponente madre del baronetto, volgendosi verso Mrs. Cadwaller con aria riflessiva, allorché l'attenzione di Mrs. Renfrew fu distratta altrove. Rafforza la malattia, disse la moglie del pastore, di troppo alti natali per non essere un'appassionata di medicina. Tutto dipende dalla costituzione. Certuni fanno del grasso, certuni del sangue, certuni della bile. Questa è la mia opinione in proposito, e qualsiasi cosa prendano è tutt'acqua che va al mulino. Allora dovrebbero prendere delle medicine che riducono la malattia, capite, se è vero ciò che dite, mia cara? E io penso che quel che dite è ragionevole. Certo che è ragionevole. Prendete due tipi di patata, cresciuti sullo stesso terreno. Uno diventa sempre più acquoso. Ah, come questa povera Mrs. Renfrew. Ecco cosa penso. Idropisia. Non c'è altro, rigonfiamento, è interno. Direi che dovrebbe prendere delle medicine essiccanti, non vi pare? O fare un bagno d'aria calda, secca? Si potrebbe tentare molte cose dalle caratteristiche essiccanti. Che provi il pamphlet di una certa persona, disse Mrs. Cadwaller sottovoce, vedendo entrare il gentiluomo. Lui non ha bisogno di essere seccato. Chi, mia cara, disse Lady Chatham, una donna incantevole, non così sveglia da rendere insipido il piacere della spiegazione. Lo sposo? Casaubon? Certo, da quando si è fidanzato ha cominciato a seccarsi più in fretta. La fiamma della passione, suppongo. Direi che è ben lungi dall'avere una buona costituzione, disse Lady Chatham ancora più sottovoce, e poi i suoi studi così aridi, come dite. Davvero? Accanto a Sir James sembra una testa di morto spellata per l'occasione. Ascoltatemi bene, da qui a un anno quella ragazza lo odierà. Adesso lo guarda come un oracolo e fra poco passerà all'altro estremo. Tutta volubilità. Che vergogna. Temo che sia ostinata. Ma ditemi, voi sapete tutto di lui. C'è qualcosa di assai spiacevole. Qual è la verità? La verità. È cattivo come una medicina sbagliata, cattiva da prendere e sicuri che farà male. Non ci potrebbe essere niente di peggio di questo, disse Lady Chatham con un'aria così vivida della medicina che le parve di aver imparato qualcosa di concreto sugli svantaggi di Mr. Casaubon. Però James non vuole sentire ragioni su Miss Brooke. Dice che è ancora un modello di donna. È una sua generosa finzione. Credete a me, gli piace di più la piccola Celia e lei lo apprezza. Spero che vi piaccia la mia piccola Celia. Certo, le sono più graditi i gerani e sembra più docile, anche se non ha una figura così elegante. Ma stavamo parlando di medicina. Ditemi di questo nuovo medico, Mr. Lydgate. Mi dicono che sia di un'intelligenza fantastica. Certamente ne ha l'aspetto, una bella fronte davvero. È un gentiluomo, l'ho sentito parlare con Humphrey. Parla bene. Sì, Mr. Brooke dice che è uno dei Lydgate del Northumberland, davvero un'ottima parentela. Uno non se l'aspetta in un medico di quel genere. Per parte mia, mi piace di più un medico che sia alla pari con i servitori. Sono spesso tanto più intelligenti. Vi assicuro che ho trovato infallibile il giudizio del povero X. Non ho mai saputo che si sia sbagliato. Era rozzo e sanguinario, ma conosceva la mia costituzione fisica. È stata una gran perdita per me che sia morto così all'improvviso. Santo cielo, che conversazione animata sembra avere Miss Brooke con questo Mr. Lydgate. Mi sta parlando di cottage e ospedali, disse Mrs. Cadwallader, il cui udito e la capacità di interpretazione erano pronti. Credo che sia una specie di filantropo, così Brooke certamente si occuperà di lui. James, disse Lady Chatham quando il figlio le si avvicinò, porta qui il Mr. Lydgate e presentamelo. Voglio metterlo alla prova. L'affabile madre del baronetto si dichiarò contentissima dell'occasione di fare la conoscenza di Mr. Lydgate, siccome aveva sentito dire che aveva curato con successo la febbre con un nuovo metodo. Mr. Lydgate possedeva quella caratteristica tipica dei medici di assumere un aspetto assolutamente serio qualsiasi stupidaggine gli si dicesse, e gli occhi scuri e fermi gli conferivano solennità quando ascoltava. Assomigliava quanto meno possibile al defunto X, soprattutto per una certa trascurata raffinatezza nel vestire e nel parlare. Egli concordò con lei nell'opinione che la sua costituzione fisica era particolare, ammettendo che tutte le costituzioni si sarebbero potute definire particolari, e non negò che la sua potesse essere più particolare delle altre. Non approvò una cura troppo delimitante, compresa l'applicazione sconsiderata di ventose, né, d'altro canto, l'assunzione continua di porto di chinino. Diceva, credo di sì, accompagnando il suo assenso intuitivo con un'aria di tale deferenza che lei si fece un'opinione favorevolissima delle sue capacità. Sono davvero soddisfatta del vostro protégé, disse a Mr. Brooke prima di congedarsi. Il mio protégé? Santo cielo, e chi è? Fece Mr. Brooke. Questo giovane, Lydgate, il nuovo medico, mi pare che conosca la propria professione in modo ammirevole. Oh, Lydgate, non è il mio protégé, sapete. Conoscevo solo un suo zio che mi ha mandato una lettera su di lui. Comunque penso che sia una persona di prima classe. Ha studiato a Parigi, ha conosciuto Brosset, ha delle idee, capite? Vuole nobilitare la professione. Lydgate ha un sacco di idee, del tutto nuove, sulla ventilazione, sulla dieta, quella roba lì, riprese Mr. Brooke dopo aver accompagnato alla porta Lady Chatham ed essere tornato a fare l'ospite educato con un gruppo di cittadini di Middlemarch. Al diavolo, pensate che sia proprio sano? Rivoluzionare le vecchie cure che hanno fatto degli inglesi quello che sono, disse Mr. Standish. Le conoscenze mediche sono a livello basso da noi, disse Mr. Bulstrode, che parlava in tono sommesso e aveva un'aria piuttosto malaticcia. Io, per parte mia, saluto la venuta di Mr. Lydgate. Spero di avere dei buoni motivi per affidargli la direzione di un nuovo ospedale. Questo è molto bello, ribatté Mrs. Standish, a cui Bulstrode non era simpatico. Se vi va che eseguo esperimenti sui vostri pazienti ricoverati e ammazzi un certo numero di persone, per carità, non ho nulla da ridire. Ma non ho nessuna intenzione di sborsare dei soldi perché si tentino degli esperimenti sulla mia pelle. Mi piacciono le cure che sono state un po' sperimentate. Beh, sapete, Standish, ogni dose di medicina che prendete è un esperimento. Un esperimento, sapete? Disse Mr. Brooke, annuendo col capo verso l'avvocato. Oh, se l'intendete in questo senso, fece Mr. Standish, con tutto il discorso per simili cavilli non legali che si può tradire nei riguardi di un cliente prezioso. Io accennerei qualsiasi trattamento che mi guarisse senza ridurmi a uno scheletro, come il povero Grangir, disse Mr. Vincey, il sindaco, un uomo paffuto, che sarebbe potuto servire per uno studio sulla carne in stridente contrasto con il colorito da francescano di Mr. Bulstrode. È una cosa insolitamente pericolosa restare senza un minimo di imbottitura contro i dardi della malattia, come ha detto qualcuno, e per parte mia penso che sia un'ottima espressione. Mr. Lydgate naturalmente era fuori dalla portata delle loro voci, aveva lasciato presto il ricevimento e lo avrebbe considerato del tutto monotono se non avesse fatto certe nuove conoscenze, soprattutto quella di Miss Brooke. A cui la freschezza giovanile, insieme al suo prossimo matrimonio, con quello scialbo studioso e all'interesse per i problemi di utilità sociale, conferiva l'aria piccante di una combinazione insolita. È una brava persona, quella bella ragazza, ma un po' troppo zelante, egli pensò. È seccante parlare con donne simili, pretendono sempre delle spiegazioni, eppure sono troppo ignoranti per capire la sostanza di qualsiasi problema e di solito ricorrono al loro senso morale per sistemare le cose come vogliono loro. Evidentemente, Miss Brooke non era l'ideale di donna sognato da Mr. Lydgate più di quanto non lo fosse per Kikeli. In effetti, considerato il rapporto a quest'ultimo, la cui mente era matura, esse era uno sbaglio in ogni senso. E calcolato per scuotere la sua fiducia nelle cause finali, compreso l'adattamento di belle donne giovani a scapoli dal viso rossiccio. Ma Lydgate era meno maturo e forse lo attendevano delle esperienze che avrebbero modificato la sua opinione su cosa fosse meglio in una donna. Miss Brooke, comunque, non avrebbe più rivisto nessuno di questi signori con il suo nome da signorina. Non molto tempo dopo, quella cena era diventata Mrs. Casebo. Ed era in viaggio per Roma. Capitolo 11. Lydgate, in effetti, sapeva già di essere affascinato da una donna enormemente diversa da Miss Brooke. Non supponeva minimamente di non essere più padrone di sé e di essersi innamorato, ma aveva detto di quella donna particolare. È la grazia in persona, è perfettamente stupenda e raffinata. Ecco cosa dovrebbe essere una donna. Dovrebbe produrre l'effetto di una musica dolcissima. Le donne bruttine le considerava alla stregua degli altri duri aspetti della vita, che si devono affrontare con filosofia e studiare alla luce della scienza. Ma Rosamond Vincy sembra possedere il vero fascino della melodia, e quando un uomo ha visto la donna che avrebbe scelto se avesse voluto sposarsi in fretta, il fatto che gli resti scapolo di solito dipenderà dalla volontà di lei più che dalla sua. Lydgate credeva che non si sarebbe sposato per vari anni, non si sarebbe sposato finché non si fosse aperto un bel sentiero per sé, lontano dalla strada ampia che era già del tutto tracciata. Aveva tenuto d'occhio Miss Vincy quasi per tutto il tempo che Mr. Casebo aveva impiegato per fidanzarsi e sposarsi, ma questo dotto gentiluomo possedeva un patrimonio, aveva raccolto le sue note voluminose e si era creato quel genere di fama che precede l'esecuzione, spesso la parte più rilevante della reputazione di un uomo. Aveva preso moglie, come abbiamo visto, perché questa abbellisse l'ultimo quarto del suo corso e fosse una piccola luna che doveva produrre delle perturbazioni a malapena calcolabili. Ma Lydgate era giovane, povero, ambizioso. Il suo mezzo secolo ce l'aveva di fronte invece che alle spalle ed era venuto a Middlemarch deciso a fare molte cose che non erano del tutto adatte a procurargli una fortuna o perlomeno ad assicurargli un buon reddito. Per un uomo che si trova in una tale situazione, il prendere moglie è qualcosa di più di una questione di abbellimento. Per quanto egli possa considerarlo importante, e Lydgate era disposto a concedere a ciò la preminenza fra le funzioni di sua moglie, per il suo gusto, sulla scorta di un solo colloquio, questo era il punto su cui Miss Brooke si sarebbe trovata carente, nonostante la sua innegabile bellezza. Essa non guardava le cose dal caratteristico punto di vista femminile. La compagnia di tali donne era rilassante, più o meno come lasciare il proprio lavoro per andare a insegnare in seconda elementare, invece di distendersi in un paradiso con dolci risate al posto di cinguettii d'uccelli e occhi azzurri al posto del cielo. Certo, al momento attuale nulla poteva parere a Lydgate meno importante dell'atteggiamento mentale di Miss Brooke o a Miss Brooke le qualità della donna che aveva attratto questo giovane medico. Ma chiunque osservi con attenzione la convergenza furtiva dei destini umani scorge una lenta preparazione di effetti che una vita esercita su un'altra, che ha l'effetto di una calcolata ironia sull'indifferenza o sullo sguardo gelido con cui guardiamo il nostro vicino non ancora conosciuto. Il destino sta in attesa, sarcastico, tenendo i nostri dramatis personae stretti in pugno. Anche la società provinciale di un tempo partecipava a questo sottile movimento. Aveva non solo le sue cadute sorprendenti, i suoi brillanti giovani dandi di professione che finivano per vivere in un androne con una sciatona e sei figli per famiglia, ma anche quelle vicissitudini meno clamorose che spostano costantemente i limiti dei rapporti sociali e generano una nuova consapevolezza di interdipendenza. Alcuni scivolano un po' più in basso, altri raggiungono una posizione più alta. La gente non riconosceva le consonanti aspirate. Accumulava ricchezza e dei gentiluomini schizzinosi si presentavano candidati per le circoscrizioni elettorali. Alcuni erano coinvolti nelle correnti politiche, altri in quelle ecclesiastiche, e forse in seguito a ciò si ritrovavano sorprendentemente raggruppati insieme, mentre alcuni personaggi o famiglie che in mezzo a tutto questo fluttuare si ergevano con la saldezza di una roccia, lentamente offrivano una nuova facciata rispetto della loro solidità e mutavano in seguito al duplice cambiamento dell'io e di chi osserva. La città municipale e la parrocchia rurale intessevano gradualmente nuovi rapporti, gradualmente, mentre la vecchia Calzetta cedeva il passo alla cassa di risparmio e il culto della Guinea Solare si estingueva, mentre signorotti di campagna e baronetti, e persino dei lord che un tempo avevano vissuto in modo irreprensibile e lontano dalla mentalità cittadina, commettevano il piccolo sbaglio di conoscersi più da vicino. Inoltre, degli immigrati vennero da contee distanti, alcuni con una maestria di un'allarmante novità, altri con il vantaggio offensivo della scaltrezza. In effetti, nella vecchia Inghilterra si produsse più o meno lo stesso genere di movimento e rimescolamento che ritroviamo nel più antico Erodoto, il quale, pure nel narrare i fatti trascorsi, pensò bene di prendere il destino di una donna come punto di partenza, sebbene io, in quanto fanciulla evidentemente ingannata da merce allettante, fosse il contrario di Miss Brooke e sotto questo aspetto somigliasse forse maggiormente a Rosamond Vincy, che aveva un eccellente gusto per gli abiti, con quella figura da ninfa e quel biondo puro che le consentiva la più ampia gamma di scelta per il colore e il ricadere dei drappeggi. Ma queste cose costituivano solo parte del suo fascino. Si ammetteva che fosse il fiore all'occhiello della scuola di Mrs. Lemon, la scuola principale della contea, dove l'insegnamento comprendeva tutto ciò che si richiedeva in una donna ben istruita, fino alla sovrappiù, come per esempio salire e scendere da una carrozza. Mrs. Lemon stessa aveva sempre additato Miss Vincy a esempio. Nessuna scolara, diceva, superava quella signorina per prontezza mentale e proprietà di linguaggio, mentre le sue esecuzioni musicali erano di un'assoluta eccezionalità. Se la gente parla di noi in un certo modo, non possiamo farci niente, e con ogni probabilità, se Mrs. Lemon si fosse messa a descrivere Giulietta o Imogen, queste eroine non sarebbero parse poetiche. La prima apparizione di Rosamond sarebbe bastata per la maggior parte dei giudici a scacciare qualsiasi prevenzione suscitata dalle lode di Mrs. Lemon. Lydgate non poteva restare a lungo a Middlemarch senza avere quella gradita apparizione, o addirittura senza fare la conoscenza della famiglia Vincy. Infatti, sebbene Mr. Peacock, di cui egli aveva acquistato la clientela a un certo prezzo, non fosse stato il loro medico, a Mrs. Vincy non piaceva il sistema debilitante da lui adottato, aveva molti pazienti fra la loro parentela e i loro conoscenti. Infatti, quale persona di una certa importanza Middlemarch non era imparentato con i Vincy, o perlomeno loro conoscente? Costoro erano industriali di vecchia data e mandavano avanti una buona fabbrica da 3 generazioni, durante le quali c'erano naturalmente stati molti matrimoni con concittadini più o meno distinti. La sorella di Mr. Vincy aveva contratto un ricco matrimonio accettando Mr. Bulstrode, del quale tuttavia, in quanto persona non nativa del luogo e dalle origini del tutto oscure, si diceva che avesse fatto bene a unirsi con una genuina famiglia di Middlemarch. D'altro canto, Mr. Vincy si era un po' abbassato, avendo preso la figlia di un locandiere. Ma anche in questo caso c'era un rallegrante senso di ricchezza. Infatti, la sorella di Mrs. Vincy era stata seconda moglie del ricco e vecchio Mr. Featherstone ed era morta anni prima senza lasciare figli, così che si poteva supporre che i nipoti e le nipoti stessero a cuore al vedovo. E accade che Mr. Bulstrode e Mr. Featherstone, due dei più importanti pazienti di Peacock, riservassero per motivi diversi un'accoglienza particolarmente buona al suo successore, il quale aveva suscitato assensi ma anche discussioni. Mr. Wrench, medico di famiglia dei Vinci, ben presto ebbe motivo di farsi una brutta opinione della discrezione professionale di Lydgate, e non vi erano storie sul suo conto che non venissero riferite in casa Vinci, dove i visitatori erano frequenti. Mr. Vinci era più incline alla socievolezza che a prendere partito, ma non aveva alcun bisogno di correre a stringere qualche nuova amicizia. Rosamond, dentro di sé, si augurava che il padre invitasse Mr. Lydgate. Era stanca delle facce delle persone a cui era abituata da sempre, i vari profili, l'egolare, l'andatura, i giri di frase per cui si distinguevano quei giovanotti di Middlemarch che conosceva da quando erano ragazzi. Era stata a scuola con ragazze di rango più elevato, per cui i fratelli, ne era certa, e sarebbe stato possibile provare un interesse maggiore per questi inevitabili compagni di Middlemarch. Ma essa preferiva non parlare del proprio desiderio al padre, e lui, per parte sua, non aveva fretta di affrontare l'argomento. Consigliere comunale in procinto di diventare sindaco, avrebbe dovuto ben presto allargare i suoi inviti a cena, ma al momento c'erano già abbastanza invitati alla sua tavola ben imbandita.